in primo piano. Buongiorno, buon 2 giugno, buon venerdì da Giulia Crivelli. Oggi è festa nazionale, perché 71 anni fa, quindi nel 1946, gli italiani per la prima volta con suffragio universale, quindi era la prima volta che votavano anche le donne, andarono appunto a votare per esprimersi su Repubblica o Monarchia come forma del nostro Stato, e come sappiamo vinse la posizione di scegliere la forma repubblicana. Ma veniamo alle prime pagine dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore, che poi vedremo in maggior profondità con Mauro Meazza, che oggi sarà con noi anche se è festa, mentre Alessandro torna lunedì. Quindi il titolo del Sole 24 Ore, Alessandro Milan naturalmente, il titolo del Sole 24 Ore è sui dati che avete sicuramente sentito nel GR, ma anche commentati già ieri, l'ultimo dato, il più aggiornato sul PIL, questa crescita oltre le attese dello 0,4, e la reazione immediata del ministro dell'economia Padoan, che ha chiesto quindi, in forza di questa crescita maggiore, uno sconto di 8,5 miliardi sulla manovra correttiva. Ma vi segnalo soprattutto l'editoriale del nostro direttore Guido Gentili, nostro del Sole 24 Ore di Radio 24, che si intitola "La grande corsa al voto, ma per fare che cosa?". Perché ieri, oltre a questo dato di economico, di cronaca di cui ho appena parlato, c'è stata anche questa accelerazione, di cui poi trovate i dettagli a pagina 6, ma avete sentito anche nei GR. Si vorrebbe appunto, anche a causa di queste nuove frizioni all'interno della nostra grossa coalizione all'italiana, in cui sapete convivono PD e il partito di Alfano, per esempio, che ieri sono venute a galla molte tensioni. Quindi c'è un'accelerazione verso le elezioni anticipate. La naturale scadenza di questa legislatura sarebbe nel 2018 a parte il fatto che non si sa appunto ancora con che legge si voterà, la domanda è: e poi? Perché è molto incerto sia lo scenario post-elettorale, visto appunto queste coalizioni così liquide, sia le priorità, perché praticamente non ci sono dei programmi di governo. Ed è di questo che soprattutto parla l'editoriale di Guido Gentili. Lo trovate in prima pagina e poi a pagina 14. Vi leggo una parte dell'estratto che trovate in copertina. Resta la domanda: votare per fare cosa? La prima evidenza che verrebbe in mente è la messa in sicurezza dei conti pubblici di un paese su cui grava un debito pari a circa il 133% del PIL, fattore di indiscutibile vulnerabilità. L'altro ieri, di fronte al presidente della BCE Mario Draghi, il governatore di Banca Italia Ignazio Visco ha parlato di sforzo eccezionale per superare definitivamente la crisi e della necessità di perseguire un avanzo primario al 4% del PIL per far sì che il debito scenda in 10 anni sotto il 100% del prodotto, cioè dal 133 al 133 punti. Si tratta di un percorso molto impegnativo, che richiama scelte di politica economica coerenti con l'obiettivo che si intende perseguire. E appunto di queste cose però per ora nei programmi elettorali non si parla, quindi da qui la domanda: votare, ma per che cosa? Corriere della Sera, un titolo non economico ma proprio strettamente politico, legato soprattutto alla reazione e alla di quella che è sicuramente una lite politica tra Matteo Renzi, ex premier e ora solo tra virgolette segretario del PD, e invece Alfano, che era ministro dell'interno nel governo Renzi, e nel governo Gentiloni, come sapete, è ministro degli esteri. Renzi, 2: non so se il patto regge. Alfano: con i democratici è finita, ma accettiamo la sfida della soglia al 5%. Questa è l'antica polemica. In Italia non sempre c'è stata una soglia di sbarramento, se non si raggiunge la quale un partito non entra in Parlamento. Si evoca sempre questo 5%, che è la soglia per esempio che c'è in Germania, e all'inizio sembrava che il partito di Alfano non la volesse, probabilmente per timore di non raggiungere questo 5%. Adesso invece Alfano dice: non è quello il problema. Un altro anniversario che cade in questi giorni, in realtà non proprio oggi, ma lunedì, il 5 giugno, è quello della guerra dei 6 giorni. Era il 1967, quindi sono passati esattamente 50 anni, e il Corriere della Sera ha una fotonotizia che è una foto d'epoca del 9 giugno del 1967, quindi a guerra lampo finita, con dei soldati israeliani davanti al muro del pianto di Gerusalemme. Che cosa successe in questi 6 giorni? Il 5 giugno del 1967, racconta Yossi Klein a Levi, e poi all'interno, trovate il resto del racconto a pagina 14 e 15, il 5 giugno 1967 iniziava il conflitto nel quale Israele sconfisse 3 eserciti arabi per poi occupare la Cisgiordania, le alture del Golan e il deserto del Sinai. Israele uscì con un territorio 3 volte più grande. I pessimisti ammoniscono che da allora ben poco è cambiato negli atteggiamenti del mondo arabo nei confronti di Israele. Gli ottimisti controbattono che la guerra ha contribuito a trasformare un piccolo stato agrario e marginale nella potenza tecnologica di oggi. La Repubblica, anche in questo caso titolo molto politico, dubbi tra i 5 Stelle sulla legge elettorale. Come vi dicevo, non si sa bene, anche se tutti avevano promesso che ci sarebbe stata la cooperazione massima in Parlamento per riuscire ad arrivare a una legge elettorale con la quale votare, andare a elezioni anticipate. Ora si dà conto naturalmente della polemica di Alfano con il PD. C'è anche un'intervista a Bersani, che poi vedremo, che dice: folle il voto prima della finanziaria. Sul 2 giugno la Repubblica ha un intervento di Graziano Del Rio, ministro delle infrastrutture, intitolato Il 2 giugno di tutti. E tra l'altro sono andata a guardare i dati, poi sicuramente in qualche articolo ci saranno, però senza leggerli tutti dalla prima all'ultima parola, sono andata appunto a guardare i dati su quel famoso voto del 2 e del 3 di giugno. I favorevoli alla Repubblica furono 12.717.000 e i favorevoli alla monarchia invece 10.719.000, quindi tutto sommato un voto con una differenza di più o meno 2 milioni di voti. Anche la Repubblica dedica molto spazio, addirittura poi all'interno c'è un piccolo inserto, alla guerra dei 6 giorni, definiti i 6 giorni che hanno cambiato il mondo. Il racconto è di Bernardo Valli, che oltre a essere stato cronista di guerra in quegli anni, è stato anche uno poi dei più grandi cronisti di guerra, e non solo di tutti gli anni che vennero poi, è proprio un decano del giornalismo italiano. La fotonotizia non è una fotonotizia, ma potremmo dire un'illustro notizia, un frame del fumetto di Zero Calcare aveva dedicato alle offensive dei curdi in questa lunghissima, a proposito di conflitti che non finiscono mai, delle rivendicazioni dei curdi per avere un loro stato. Il riferimento naturalmente è Ayse Deniz Karagil, che, come avete sentito nel GR, nella controcopertina di Alessandra Schepisi, è stata uccisa. Nel fumetto Zero Calcare era raffigurata chiamata Cappuccio Rosso, era raffigurata in tutta la sua energia di poco più di 20enne che lottava appunto per i diritti del suo popolo. Vi segnalo poi invece sulla prima pagina della Stampa un titolo sempre politico, però la fotonotizia è Trump che parla nel Giardino delle Rose ieri alla Casa Bianca, e che ha fatto questo annuncio, sapete, via l'accordo e la giustificazione principale ripetuta più volte, via dall'accordo raggiunto a Parigi, che era stato definito storico, un accordo storico che metteva insieme quasi tutti i paesi del mondo per dare una serie di priorità, tra le quali naturalmente la lotta al riscaldamento globale, tutti insieme. Però Trump fin dall'inizio della sua campagna elettorale aveva detto che avrebbe fatto di tutto per slegare gli Stati Uniti da questo accordo. Ora ha quasi no, 9 mesi dall'elezione e 6 mesi dall'entrata in entrata proprio ufficiale come nel suo ruolo di presidente degli Stati Uniti, che sapete le elezioni sono a novembre, poi l'entrata in ruolo appunto è a gennaio. Ecco, dopo 6 mesi ha confermato tutto quello che aveva promesso ai suoi elettori, cioè gli Stati Uniti si sfilano da questo accordo. Perché? Per proteggere soprattutto le aziende americane, che sarebbero tra le più penalizzate dalle nuove regole. Il Messaggero ha un titolo simile a quello del Sole 24 Ore: sale il PIL, sconto sulla manovra. Quindi, dopo questa notizia, con questa crescita sorpresa, che appunto poi anno su anno vuol dire 1,2%, e l'immediata reazione del ministro dell'economia Padoan, che ha scritto a Bruxelles. Il Messaggero è l'unico giornale che mette in prima pagina la notizia che avete sentito brevemente anche nel GR, di questo attacco ancora poco chiaro nelle sue modalità, però questo attacco a Manila, dove per ora ci sono stati il bilancio di 25 feriti, ma chissà che non debba essere aggiornato, un attacco in un mega hotel con una rivendicazione dell'ISIS che vedremo quanto attendibile. Anche in questo caso la fotonotizia è dedicata a Trump: no all'accordo sul clima, giro di vite. Tra l'altro Trump, tra le altre cose, ha anche annunciato questo giro di vite sugli ingressi negli Stati Uniti e una possibile introduzione di uno screening molto approfondito, molto diverso da quello che si fa adesso, come tutti noi sappiamo, quando si compila la richiesta di visto o di waiver, che è una procedura molto veloce per poter entrare negli Stati Uniti, e vale per esempio per noi europei. Vengono fatte alcune domande del tipo: lei ha mai fatto il terrorista, è stato mai condannato? Ecco, questo tipo di domande naturalmente verrebbero cancellate e sarebbero invece soppiantate da un autentico screening che si ipotizza guardi anche a tutto quello che noi abbiamo detto, scritto, fatto sui social network. Ma vedremo, perché per ora è una ancora appunto non si capisce bene quanto realistico sia questo piano. Comunque ci sarà un giro di vite sugli ingressi degli Stati Uniti da tutti i paesi, Europa compresa. Almeno questo Trump ha indicato ieri. Vi segnalo oggi la Gazzetta dello Sport, perché c'è naturalmente tantissima attesa per la finale della Champions League, che si terrà domani a Cardiff tra Juventus e Real Madrid, e quindi la Gazzetta dello Sport: Juve puoi ribaltarli, una copertina graficamente molto divertente, perché ci sono la squadra degli Juventini sopra, e invece proprio ribaltati la formazione del Real Madrid. E all'interno, pagine 2-3, gli sfidanti alle operazioni di peso. E anche qui è abbastanza originale il modo, insomma, in cui dell'infografica, perché per ogni giocatore viene indicato anche il peso fisico e l'altezza, e poi naturalmente si cerca di capire, riepilogano quanti finali hanno giocato, quanti gol hanno fatto, insomma, una vera radiografia. Poi molto spesso insomma, questi calcoli, queste statistiche nel calcio, come in tutti gli sport, poi c'è sempre, per fortuna, credo che sia anche per gli appassionati più divertente così, c'è sempre molta incertezza in ogni partita. Avvenire ha un titolo ancora diverso, economico, però si focalizza sulla questione della cedolare secca, quel metodo per pagare le tasse sugli affitti, che è stato introdotto qualche anno fa in Italia. Magari chiederemo anche a Mauro cosa ne pensa di questa scelta dell'Avvenire di focalizzarsi su questo studio dell'Agenzia delle Entrate, da cui emerge troppo scarsa l'emersione del nero. Come sempre, spesso quando vengono introdotte nuove norme fiscali in Italia, si dice che è per far emergere il nero, poi non sempre questo succede. Cedolare perdita secca: la tassazione agevolata sugli affitti ha prodotto 2 miliardi l'anno di buco, e alla fine chi ha avuto gli sconti maggiori sono le persone che hanno i redditi più alti. La fotonotizia dell'Avvenire, come sempre, come spesso accade, ci aiuta ci fa vedere cose che non vogliamo vedere o che nessuno ci fa vedere. Qualcuno potrebbe dire: dovremmo informarci da soli. In ogni caso, la notizia è questa: che c'è l'ennesima siccità in Africa. Questa volta è nel deserto del Niger. Ci sono, secondo i calcoli di avvenire basati sui dati delle organizzazioni internazionali, sono già 44 i migranti morti, molti sono bambini, molti migranti attraversano questo corridoio, attraversano il deserto del Niger per cercare poi di arrivare in Libia o in altri paesi costieri per poi cercare di imbarcarsi per l'Europa, e questo per via della siccità appunto sta in queste carovane, sta già causando moltissimi morti. Il giornale Alfano si arrende, quindi anche qui il titolo è sulle questioni politiche, e poi invece l'editoriale però del direttore Alessandro Sallusti rinnesca una schermaglia con Repubblica e con il suo direttore Mario Calabresi, che prende spunto dall'atteggiamento di Repubblica all'epoca quando scoppiò l'inchiesta sulla casa di Monte Carlo, ricorderete, comprata dal cognato, o meglio dal fratello della compagna di Fini, Giancarlo Tugliani, e si fecero allora una campagna contro Fini che per alcuni giornali, soprattutto Il Giornale, che è di proprietà della famiglia Berlusconi, Gianfranco Fini era ancora visto come il grande traditore di Silvio Berlusconi. Altri giornali invece difesero Fini, tra questi La Repubblica, che con Giuseppe D'Avanzo, che nel frattempo è un giornalista che nel frattempo è morto per un infarto, quindi era anche prematuramente, parlò invece di assassinio politico. E ora continua questa schermaglia perché Sallusti ha ricordato che l'evoluzione dell'inchiesta su Fini dà ragione alle posizioni di allora del giornale. Calabresi invece continua a dire che La Repubblica non fu di parte, e continuano queste schermaglie. Il corsivetto che ha fatto arrabbiare Alessandro Sallusti lo trovate, sono andata a cercarmelo, sulla Repubblica di ieri a pagina 25. Ci fermiamo però un attimo per il traffico, così lasciamo queste polemiche, di cui comunque ho voluto dar conto perché in effetti in qualche modo siamo coinvolti noi giornalisti. Se ci sono stati degli errori o delle sottovalutazioni, come pare quasi certo nel caso di Repubblica per l'inchiesta su Fini, forse sarebbe meglio semplicemente dire abbiamo fatto delle valutazioni sbagliate, che non restare incagliati sulle posizioni pur di difendere quello che si era detto e scritto anni prima. In primo piano. Ancora buongiorno, buon venerdì, buon 2 giugno da Giulia Crivelli. Naturalmente ho chiamato il traffico che non c'era, ma poi ci penserà qualcuno più autorevole di me a chiamarlo, Mauro Meazza naturalmente, tra una decina di minuti. Torniamo alla lettura dei giornali e alla segnalazione di come aprono i giornali, soprattutto in questa parte della rassegna. E intanto però ringrazio anche tutti gli ascoltatori che, benché appunto oggi sia festa e sia anche molto presto, stanno già mandando messaggi WhatsApp al 349-238-6666. Vi ricordo anche, se volete, il mio account Twitter, che è @Giulia_Crivelli. E vi segnalo la prima pagina di Libero, che ha un titolo completamente diverso da tutti gli altri, perché prende spunto da alcuni dati di Banca Italia, e il titolo è "Quanti giudici fannulloni?" Perché? Perché la produttività dei tribunali nella giustizia civile è crollata, soprattutto al sud, dove i tempi dei processi sono più lunghi di quasi il 40% rispetto al centro-nord. Per via nazionale, Via Nazionale è la sede del Ministero della Giustizia, non c'entra l'organico, Via Nazionale è la sede di Banca Italia, quindi in questo rapporto di Banca Italia si sottolinea che non è una questione di organico ma di disorganizzazione. Fausto Carioti ha una posizione molto diversa da quella della maggior parte dei giornali. Il titolo del suo articolo è "Chi se ne frega del clima ha ragione Trump", e appunto sostiene questa decisione ieri annunciata da Trump che gli Stati Uniti usciranno dall'accordo di Parigi. Stesso titolo, proprio titolo principale per il manifesto sulla decisione di Trump: carbon fossile. Ora è ufficiale, Trump cestina l'accordo di Parigi sul clima e riporta gli Stati Uniti all'era dell'energia fossile. Ma vi segnalo, soprattutto dal manifesto a pagina 3, la questione della California. La California è lo stato più popoloso degli Stati Uniti, ha quasi 40 milioni di abitanti, un'estensione è grande quasi come l'Italia, il terzo stato più grande degli Stati Uniti, ed è un po' come la Lombardia per l'Italia, cioè lo stato con un'economia molto forte, soprattutto sempre all'avanguardia. E ha un governatore, Jerry Brown, che ha già reagito alle dichiarazioni di Trump E infatti il titolo del manifesto, che dà più enfasi di altri giornali a questa importante presa di posizione della California: California si ribella a Washington, avvocati già sul piede di guerra. La California, ha detto Jerry Brown, farà tutto ciò che è in suo potere per mantenere la rotta e incrementare il progresso ambientale in ogni stato, provincia e paese. Vedremo, insomma, come, anche perché, come dicevamo all'inizio, Trump ha annunciato questa uscita, ma i dettagli sono ancora da chiarire. Il Fatto Quotidiano è praticamente una prima pagina tutta politica, però vi segnalo, quindi, sulla possibile riforma elettorale con che porterà alle nuove regole per il voto, sulle reazioni di Padoan, che ha subito scritto a Bruxelles. E però vi segnalo la fotonotizia, e anche in questo, e come per Avvenire, che ci segnalava la siccità nel deserto del Niger e la strage, quindi, di migranti che cercano di attraversarlo, il Fatto Quotidiano con una fotonotizia ci richiama a quello che sta succedendo in Venezuela, che è un paese definito, credo a ragione, purtroppo sull'orlo della guerra civile. I giovani del Venezuela contro Maduro, l'attuale presidente, e la fame. E trovate il reportage a pagina 12. Ma veniamo alle pagine interne dei giornali. Dal Sole 24 Ore, poi Mauro ci farà altre segnalazioni, ma io in realtà sono stata molto colpita dalla pagina 15, che è una pagina di commenti e inchieste, da un approfondimento sul trasporto su rotaia. L'Italia è sicuramente molto indietro storicamente su questo tipo di trasporto. Abbiamo sempre favorito un po' il trasporto su gomma, con tutto quello che ha voluto dire anche in termini di inquinamento. Marco Morino, che è tra le sue specialità, approfondimenti, ha sempre seguito il settore del trasporto ferroviario, firma due articoli. Uno, una cura di ferro per il sistema dei trasporti. Nel prossimo decennio il gruppo FS prevede investimenti per circa 62 miliardi di euro. E poi un approfondimento sui treni merci, che anche questi sono, anche in questo caso, l'Italia ha sempre preferito per il trasporto delle merci il trasporto su gomma. 100 treni merci in più al giorno viaggeranno tra Italia e Svizzera. Però per tutto il resto adesso darei non è ancora con noi Mauro Meazza, aspettiamo un attimo, e comunque poi Filippo Aureggi in regia mi fa segno che Mauro è con noi, ci darà altri spunti dal Sole 24 Ore di oggi. Vi segnalo invece dal Corriere della Sera un articolo un po' da mani sul volante, se vogliamo, un'intervista, un lungo colloquio di Gian Antonio Stella con Leo Luca Orlando, che è stato sindaco di Palermo e ora vuole tornare a correre. Si definisce da solo vecchio orso e dice da solo di sé che serve ancora. Il sindaco vuole un altro mandato, e tra l'altro anche Totò Cuffaro, che è stato anche condannato in via definitiva per reati legati ai reati mafiosi, vuole tornare anche lui. Poi un'intervista di Aldo Cazzullo, di quelle interviste a tutta pagina, però adesso, siccome l'intervista è a Walter Veltroni e per quanto mi riguarda non è assolutamente prioritaria, perché poi si inserisce in queste eterne schermaglie interne al PD, adesso finalmente c'è Mauro e torniamo sulle pagine del Sole 24 Ore. Buongiorno Mauro. Buongiorno Giulia, grazie molto di addirittura avermi fatto passare avanti, come dire, a questi personaggi importanti, a queste discussioni ovviamente importanti. Ma allora, io vorrei cominciare con qualche cosa di molto operativo. C'è la manovrina, non so se ne hai sentito parlare. La manovrina, ma com'è cambiata? Perché sai che la manovrina è un decreto legge, però sta cambiando. Allora, com'è cambiata la manovrina? Tu oggi, come sempre fai, leggerai religiosamente norme e tributi. Mm-hmm. Abbiamo dedicato diverse pagine proprio ai contenuti della manovrina, alcuni titoli, così ti do delle suggestioni qua e là. Sai che c'è una sorta di anticipo di web tax, quindi una tassazione per chi opera in Italia, questi colossi del web che avranno una possibilità di accordo di cooperative compliance, come si dice nel gergo fiscale. E poi naturalmente c'è la voluntary disclosure, perché la voluntary disclosure prevede nella manovrina alcune correzioni. Sai che la voluntary disclosure nella sua versione bis non sta andando fortissimo, l'abbiamo scritto qualche giorno fa, e allora si prova a fare delle correzioni. E poi c'è il ritorno dei voucher, i nuovi voucher, non saprei bene come definirli, però dopo l'abrogazione ora si introduce un sistema diverso per i piccoli lavori. Questo e molto altro mi verrebbe da dire, ma invito naturalmente tutti quanti a leggere, oggi è festa, quindi c'è più tempo per leggere, leggete su carta, su tablet, come vi pare, insomma, i dettagli della manovrina sul Sole 24 Ore. Poi già ricordavi giustamente il buon risultato del prodotto interno lordo, ma anche il fatto che stiamo chiedendo, il nostro ministro dell'economia sta chiedendo uno sconticino sulla prossima manovra. Efficientissimo Padoan, appena arrivato il dato subito ha chiesto lo sconto. Ah, ma... In realtà sai, c'è anche il discorso del salvataggio di MPS del certo. Monte Paschi Siena. Allora vedrai a pagina 3 tutti i particolari non solo di questo piano che sembra potersi fare, questo accordo con Bruxelles per il salvataggio di Monte Paschi, ma anche quali sono effettivamente, quali saranno le condizioni, perché Luca Davi e Gianni Trovati puntualmente ti segnalano che cosa ci potrebbero chiedere, e tra l'altro appunto oltre alla cessione di questi crediti deteriorati eccetera si parla anche, ohimè, di tagli del personale, e quindi vedremo poi quando il piano, l'intesa sarà scritta, come si tradurrà nel dettaglio. Tutti i particolari in pagina 3, poi naturalmente oggi c'è Moda 24, ma si parla di recruiting, cioè di ricerca di personale per il settore della moda. Non c'è bisogno di ricordare che il settore della moda, specialmente a te, voglio dire, il settore della moda è importante non solo dal punto di vista dell'immagine del Made in Italy, ma anche... Posso dare due numeri? Perché sai che io mi... Così, ma volentieri! Ho sempre la reazione automatica quando si dice che la moda è una cosa frivola. Il secondo settore industriale per il nostro paese da solo contribuisce alla metà del nostro surplus commerciale, dà lavoro a 600.000 persone, quindi come dicevi tu c'è questo recruiting che non vuol dire assolutamente solo gli stilisti ma tantissime altre professioni. Stop. E infatti è il senso proprio della pagina di oggi sul Sole 24 Ore, poi con le questioni occupazionali che sempre ovviamente devono stare in cima ai nostri pensieri, l'idea di una ricerca di personale specializzato proprio in questo settore così cruciale per la nostra economia è importante. Allora, Moda 24, come tutti i venerdì, anche il 2 giugno sul Sole 24 Ore. Naturalmente ci sono anche degli articoli di tal Giulia Crivelli, che non so se conosci, nelle pagine proprio di Moda 24, ma lasciamo bando alle celie e invece ti voglio segnalare, c'è una buona notizia, finalmente il Parlamento europeo si è arreso, anche i libri in formato digitale potranno avere l'IVA ridotta. Era una battaglia che durava da anni, c'erano state anche delle sentenze di condanna, ma insomma si è ammesso che come i libri di carta anche il libro digitale può avere accesso all'IVA ridotta. Tutti i particolari in norme e tributi lo apprenderai perché lo leggerai religiosamente. Già hai ben segnalato il contributo di Marco Morino per quanto riguarda gli investimenti per il trasporto ferroviario, tra 62 miliardi, non proprio bruscolini, come dire. Ma poi, leggendo avidamente, come sempre bisogna fare, le pagine di finanza, ti inviterei a non trascurare i parterre. Allora, i parterre, per chi magari non fosse in questo momento particolarmente lucido, lo possiamo dire, sono questi corsivi che stanno nella terza pagina delle pagine di finanza, perché lì si parla di una maxi multa che starebbe prendendo corpo per Google. Sai che c'è l'antitrust della UE, sta indagando sulla questione e si rischia praticamente una multa da 9 miliardi. L'istruttoria sarebbe alle battute finali, queste le anticipazioni che trovi insieme naturalmente a molte altre cose sulle pagine di finanza e mercati. Infine devo fare un annuncio, con il tuo permesso ma anche senza, perché non solo il debosciato Milan si è preso una giornata di vacanza oggi, ma io stesso in persona mi prenderò un'intera settimana di vacanza da questi collegamenti con gli ascoltatori di Radio 24. In primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno e buon 2 giugno da Giulia Crivelli. Volevo solo rispondere all'ascoltatore sulla moda e lo faccio proprio perché, seguendo il settore, insomma, è forse una delle poche cose che conosco a fondo. L'ascoltatore scrive: la moda è frivola e non strategica per gli altri paesi avanzati. La moda in sé, se intendiamo appunto il cambiare delle tendenze di stagione in stagione, è sicuramente frivola. Quello che intendo io, e ora lo dico meglio, è che il sistema del tessile, moda, abbigliamento italiano è un'industria al suo piccolo apice, la punta dell'iceberg nelle sfilate, che forse sono effettivamente un po' frivole, e sotto c'è questo iceberg che appunto dà lavoro a 600.000 persone e che fa della tessile, moda, abbigliamento la seconda voce della nostra industria. Quindi non è frivola ed è strategica, non perché non abbiamo altro, ma perché è una nostra grandissima forza, una filiera che il mondo ci invidia. Scusate, ma è proprio una questione di fare riferimento ai numeri. Vi dicevo, nelle altre pagine interne dei giornali, questa volta vi segnalo due cose sulla Gazzetta dello Sport. Una riguarda il basket, perché sono iniziate le finali dell'NBA, quindi il campionato americano a cui tutti guardano, perché è sicuramente il campionato di basket più bello del mondo, di pallacanestro più bello del mondo. Qui c'è un'intervista di Davide Chinnato a LeBron James, che è un giocatore di 32 anni degli Cleveland Cavaliers e tenterà appunto di nuovo di vincere il titolo dell'NBA. Il virgolettato scelto: è ancora dura essere nero negli Stati Uniti. E se lo dice un nero, che tra l'altro è naturalmente nello sport è veramente al vertice, forse ci fa capire che anche tante cose sulle tensioni razziali che ci sono e gli scontri che ciclicamente scoppiano nelle città americane, specie quando, e purtroppo accade spesso, la polizia delle reazioni esagerate, apparentemente pregiudiziali nei confronti dei neri, che spesso appunto vengono uccisi dalla polizia e poi scaturiscono le rivolte. Lo spunto è che sul cancello della residenza di Los Angeles di LeBron James sono apparse delle scritte razziste. L'altro articolo, velocissimamente, la Coppa America. Sicuramente ci sono degli appassionati di vela tra i nostri ascoltatori. È iniziata un po' in sordina perché è un'edizione un po' strana questa della Coppa America. Comunque magari man mano che le regate proseguono ci sarà più interesse. Si svolge alle Bermuda, quindi c'è anche un problema di fuso orario. Comunque il titolo dell'articolo di Luca Bontempelli, appunto dalle Bermuda, è: la Coppa America in crisi con il vento leggero. Pensate che comunque vedere queste regate con questi catamarani velocissimi in realtà avrebbe di qualcosa di spettacolare. Non ci sono di fatto barche in gara perché Luna Rossa si è ritirata in disaccordo con le attuali regole della Coppa America, però comunque appunto sono regate spettacolari. Magari man mano che proseguono ne vedremo alcune. Vi segnalo altri, ci sarebbero, avevo messo da parte tantissimi articoli ma purtroppo abbiamo ancora pochi minuti, del reportage dal Venezuela che trovate sul Fatto Quotidiano, vi ho detto, a pagina 12. Vi segnalo un ulteriore approfondimento sulla vicenda terribile di Francesco Bonifazi, il bambino di 7 anni morto perché per un'otite che avrebbe potuto essere curata e guarita con degli antibiotici. I genitori si sono invece rivolti a un medico omeopata, che peraltro non era neanche pediatra, che fino all'ultimo ha vietato ai genitori, che hanno comunque ascoltato questo medico, ha vietato ai genitori di usare per esempio gli antibiotici. Il bambino poi è entrato in coma ed è morto perché l'otite si è trasformata in un'encefalite. I pazienti dell'omeopata, che Sara Bertuccioli e Paolo Brera hanno scovato, molti dei suoi pazienti, o ci auguriamo ex pazienti, raccontano quello che questo medico diceva loro. Per esempio, a uno ha detto: per il tumore non bisogna usare la chemioterapia perché i tumori sono causati dall'abuso di farmaci, e altre piacevolezze di questo genere. Dalle pagine della cultura di Repubblica vi segnalo una bellissima intervista di Leonetta Bentivoglio a Mark Haddon, che ricorderete qualche anno fa è diventato molto famoso con il bestseller Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte. Il protagonista era un bambino autistico, un libro bellissimo, oltre che essere un giallo nel vero senso della parola, però anche ci apriva una finestra su questo mondo purtroppo ancora incomprensibile dell'autismo. Ora esce un nuovo libro e Leonetta Bentivoglio lo ha intervistato, e il virgolettato scelto per intitolare l'intervista: detesto Carver, perciò scrivo. Raymond Carver, il grande scrittore americano che molti considerano un idolo, e Mark Haddon, forse un po' anche così polemicamente, dice: no, io lo detesto e quindi scrivo per dimostrare che si può anche non scrivere in quel modo. Da altre cose che volevo segnalarvi, un po' appunto forse un po' più leggere in questo 2 giugno, in cui magari avete tempo di leggere i giornali con un pochino più di calma, un bellissimo ritratto di Michela Tamburrino a Giovanni Sollima, che è un violoncellista, anche compositore, e passa con una disinvoltura incredibile dalla musica classica concerti per violino, per violoncello, scusatemi, famosissimo, ma è anche compositore, e dice, siccome sarà, lo spunto è che sarà al Quirinale oggi per la Festa della Repubblica con i solisti aquilani, ha fatto una scaletta e dice: così ho dato nuovo respiro al nostro inno nazionale, e in scaletta ci sono grandi italiani, e speriamo, appunto, io spero personalmente di riuscire ad ascoltare questa esibizione di Giovanni Sollima con questo strumento che è bellissimo. Poche domeniche fa c'era un violoncellista ospite di Armando Torno e diceva: è forse l'unico strumento che si abbraccia proprio, e già questo dà un significato particolare al rapporto tra il musicista e il suo strumento. L'ultimissima segnalazione dal Foglio Quotidiano, una pagina intera di Cristina Giudici sulla condizione delle donne nell'Islam. Quando la religione giustifica la violenza sulle donne è più difficile scappare. Storie tristi, racconti di botte e di rinascite, ed un hijab lasciato su un tavolo. Una questione, naturalmente per me, poi che sono donna, importantissima, quella appunto delle regole che la religione islamica impone alle donne. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Filippo Aureggi in regia. Ancora un buon 2 giugno a tutti. Noi ci risentiamo domenica per la rassegna stampa dei giornali italiani.